è partita. Bellissimo, subito con gli applausi. Davvero? Vabbè, sta parte si taglia, dai. No, no, no, io non ho ancora iniziato a registrare. Ah, ok. La devo rimandare allora. No, no, no, no, lascia, no, tanto rimane un po' di... Volevo provare se c'era appunto una cosa da mandare che fa degli applausi. Assurdo, allora, meno 10, meno 6. ok. Sì, alla fine quindi... abbiamo già servito. Sì. Quindi chi parte? Partiamo tutti insieme. Ok? Va bene. Tutti per la loro. Ok, cioè ognuno cominciamo tutti a parlare contemporaneamente. Un'idea geniale. Va bene, ma così diventa una puntata. Sì, ognuno che dice le sue cazzate. Sì, diventa una performance. Va bene, dai, countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Buongiorno, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Ciò delle Storie, stagione 1. Eh sì. Oggi... che puntata è? Io ho perso il conto, che puntata è? Siamo alla quarta e siamo ancora tutti qua. Quarta Anzi, puntata. Siamo sempre di più. Cioè, oggi, quanti siamo oggi? Siamo in 5. Siamo in 5. Cioè, in pratica di nuovo. Chi c'è di nuovo? Chi c'è? Allora, Anca. Ciao Anca. Ciao a tutti. E Andre. Poi abbiamo una persona nuova. Ciao Andre. Ciao, buonasera a tutti. Eh sì, quindi siamo in 5, cioè in pratica totalizziamo in diretta il numero di followers totali della radio su cui trasmettiamo. Ma aspetta, ma stiamo parlando di Radio Barrio? Esatto, ma quella con 5 follower, non quella con 6. Ah, okay, sempre certo. quella. Mi sbaglio sempre. Comunque 5 follower, già incredibile. 5 o 6, cioè non lo so, però insomma stiamo crescendo. Esatto. Bene, sono successe tante cose. Questa troppe. Settimana è stata veramente densissima. Fra l'altro ci siamo salutati l'ultima puntata appunto con un pezzo di Tupac parlando un po', diciamo, dei fatti di Minneapolis, che in questa settimana poi sono esplosi ulteriormente, no? Assolutamente sì. Changes, no? Come diceva Tupac. Changes, esatto. Beh. E quindi bisogna parlarne, sì. Nonostante sia un argomento effettivamente duro da affrontare, insomma, anche un po' per i temi, un po' per le modalità con cui sta sviluppando. Chiaro, poi perché magari ne sappiamo anche poco e non ci compete al 100%, però boh, io un po' di cose me le sono lette, quindi farei un po' un'introduzione di quello che è successo. Ora, però prima io direi di fare una specie di resoconto iniziale sui temi che affronteremo lungo la puntata, no? Giusto. Quindi, quali saranno? Quindi, cominceremo con questi, poi che cosa succederà? Quindi parliamo dell'assassinio di George Floyd, prima. Esatto, e di tutto quello che ne è venuto fuori sostanzialmente. Eh sì, delle troppe cose di cui ci sarebbe da parlare, di cui bisognerà fare una cernita. E poi ci sarà... E poi ci sarà anche la prima fenomenale puntata della nuova rassegna. Allora, abbiamo pensato a una nuova rassegna che in questo momento sembra leggermente strana e fuori luogo, ma in fondo è parte delle nostre vite, ed è una rassegna sul sesso al tempo del coronavirus. E ne parleremo da varie prospettive, se ne stanno occupando persone serie, quindi non siamo noi qua ad esserci inventata questa cosa, sono usciti articoli sull'Economist, su giornali importanti, quindi è un argomento di cui si parla tanto perché se ne fa poco, quindi giustamente perché tutto è stato sconvolto. Ottima osservazione. E poi Andrea, invece, tu di che cosa parlerai? Diciamo che cercherò di fare un excursus un po' sullo sport popolare in Italia e insomma gli effetti di questo coronavirus per la ripartenza. quindi una roba abbastanza generale, ma di cui in pochi parlano. Ok. Dalla grandissima Lokomotiv, l'unica squadra che vale veramente la pena tifare, tra l'altro. Esatto. Lokomotivia di Pietreto, o più semplicemente Lokomotiv. Bellissimo. Che io non conoscevo, quindi buona a sapersi. Una realtà locale sicuramente, insomma, è un'esperienza diretta da cui se ne può trarre delle informazioni interessanti, certamente. Però tutte le volte che sei andato alla festa nell'Aia, i tuoi soldi sono serviti a pagare l'iscrizione al nostro campionato. Quindi. Sono ancora più contento, allora. Bellissimo. Va bene, dai, ma Dai, dai. andiamo per gradi. Quindi ve ne ho dati tanti, Si sta già questo. creando hype. Bene, dai, allora Umberto, direi che è l'ora di iniziare, dai. Che cosa è successo questa settimana? Allora, è iniziato tutto il 25 maggio, quando George Floyd, un afroamericano con 5 figli, di cui tra l'altro una bambina di 6 anni, e moglie, viene ucciso dalla polizia di Minneapolis, soffocato. Soffocato con un ginocchio sul collo. Insomma, abbiamo tutti in mente quelle immagini lì. Io, tra l'altro, non ce l'ho nemmeno fatta vedere tutti i video perché, insomma, Ah, io purtroppo. sono di stomaco e di cuore debole. Fatto sta che il 26 di maggio, il giorno successivo, anche grazie al diffondersi di questo video, iniziano le prime proteste a Minneapolis. Proteste che continuano dal 27 al 31 di maggio, attraverso, prima, un incendio del commissariato e a seguire, col coprifuoco della polizia. Quindi cosa succede? Succede che il 27 viene incendiato il commissariato della polizia di Minneapolis. Perché, secondo i protestanti, o almeno a quanto è emerso, perché i protestanti stavano protestando contro il fatto che il poliziotto responsabile, i 4 poliziotti responsabili della morte di Floyd fossero ancora liberi. In effetti, il poliziotto che aveva il ginocchio sul collo di Floyd si trovava ancora in casa sua in quei giorni, protetto da cordoni di polizia armata. Davvero incredibile. Sì, poi parliamo anche di questo e di quanto è paradossale, no? Però, insomma, cosa succede? A questo punto viene introdotto il coprifuoco, il che significa che in America, in varie città, dalle 4 in poi di pomeriggio, se ti beccano in strada, vai in galera, a prescindere, specialmente se sei nero, ovviamente. A questo punto, durante le proteste, più di 120 fra reporter e giornalisti vengono arrestati, anche in diretta, tra l'altro. Il 1 giugno Trump minaccia l'intervento dell'esercito. A questo punto Twitter segnala il messaggio di Trump come pericoloso perché fomenta l'odio e gli arrivano varie critiche da tutte le parti. La polizia a questo punto, dopo che Trump dice inasprite le forze contro i manifestanti o mando l'esercito, la polizia a questo punto inizia a usare tear gas e proiettili di gomma per dispendere i manifestanti. Ora c'è da dire che i proiettili di gomma in realtà sono proiettili di metallo ricoperti da un sottile strato di gomma che effettivamente ti trapassano da un punto all'altro, ti creano 2 ferite, una di entrata e una d'uscita. Non sono proprio cose con cui si scherza. Fatto sta che al 3 giugno abbiamo 13 morti e 9.000 arrestati fra i manifestanti. La destra americana a questo punto decide di proteggere coi fucili GameStop e gioca a fare la George Floyd Challenge su 4chan. Trump nel frattempo si fa le foto. Sì, anche a me questa mi mancava la George Floyd Challenge, sinceramente. La George Floyd Challenge consiste nel fotografarsi fra bianchi con fucili, col ginocchio sul collo di un altro, basicamente. Trump invece si fa le foto con la Bibbia davanti alla chiesa dopo aver fatto sparare sui manifestanti. All cats are beautiful. Io comunque, i nazisti dell'Illinois, li odio veramente tanto. Cheat. Una citazione. break out. Katie left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. You know my baby long, great gosh almighty, my baby. She long, my baby she tall. These people will help me catch her, and I'll beat y'all in a hole. Crazy about her, the hard-headed woman of mine. Well, I love my baby, she's so fine. Wish she'd come and see me sometime. She don't believe I'm saying, she don't look what shame on me. Brothers, All Cats Are Beautiful. Bellissimo, bellissimo, bellissimo davvero. Allora, ma insomma, la reazione della destra, no? La reazione della destra, ma la reazione della destra sui social, anche di quella moderata, no? Io vedevo tanti che dicevano: ma no, è un caso isolato, ma vedi che non c'è mica un problema di razzismo con la polizia in America. E niente, io mi sono detto, ma sarà vero che è un caso isolato? No? Mi sono messo un po' a guardare, non è che ho cercato tanto, un paio di articoli, New York Times, The Guardian. E niente, Ferguson, Missouri, nel 2014, Mike Brown sparato da un poliziotto bianco. I testimoni lo descrivono mentre alzava le mani chiedendo pietà prima che fosse ucciso. Dopo poco, a New York City, sempre nel 2014, Eric Garner racconta... Eric Garner fu strozzato da un poliziotto ripetendo per 11 volte la frase «I can't breathe», proprio come George Floyd. Cleveland, Ohio, poco dopo, sempre nel giro di 4 mesi dalla prima, dalla prima di questi eventi del 2014, un bambino di 12 anni nero sta giocando con una pistola giocattolo, un poliziotto bianco gli spara. Nel 2015 Tony Robinson, Eric Harris, Walter Scott, Freddie Gray, William Chapman, Samuel DeBose sono casi che sono diventati famosi perché hanno raggiunto i media. Parliamo soltanto di nel giro di un anno e mezzo. Così, niente, solo per fare alcuni nomi di casi che sono diventati famosi. Io a questo Appunto. punto direi che è un caso tanto isolato, non sembra, anche perché tutta la storia, no, dell'America, anche prima della guerra per i diritti civili, c'erano ronde che punivano o che picchiavano, uccidevano gli schiavi all'epoca, che venivano regolarmente protette o addirittura sovvenzionate dalla polizia. È una cosa che nasce con la storia dell'America. Sì. A questo punto viene anche da chiedersi, cioè, come mai proprio adesso, cioè, dato che non è un episodio isolato, perché proprio questo episodio ha creato tutto questo trambusto? Quindi, forse, come si diceva anche nella scorsa puntata, ci può essere che c'è un collegamento anche con il lockdown, le frustrazioni derivanti da tutto questo periodo? Beh, è Beh. inevitabile che quel collegamento ci sia, anche solo per il fatto che, insomma, 40 milioni di persone hanno perso il lavoro, più o meno, e fra quelle persone c'era anche George Floyd, quindi fra i tanti, questi fattori del coronavirus hanno influenzato tantissimo, secondo me, questi tipi di sommosse, ma allo stesso tempo è fondamentale quello che stava dicendo anche Umberto, cioè questo è qualcosa che è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma in questo caso è ovvio che cioè, questo vaso è già pieno, stracolmo da anni e anni Infatti, di soprusi. E, cioè, sì. Da fa impressione, lo dicevano proprio su tanti 600 articoli, anni. quanto sì, cioè, addirittura sono andati nel dimenticatoio questi nomi da tanti che se ne sono susseguiti, e questo è indice sicuramente di qualcosa. Senza considerare il fatto che più delle volte nel momento in cui c'è un abuso, se non addirittura un'uccisione da parte di un agente della polizia, l'unico che poi alla fine può testimoniare e dire com'è andata è soltanto la parte del poliziotto, quindi tantissimi casi saranno anche stati fondamentalmente insabbiati, non è difficile da immaginarsi una situazione del genere. Eh sì, Sì, è. quando c'è la polizia di mezzo comunque è sempre complicato trovare dei colpevoli. Mi viene in mente appunto anche Stefano Cucchi, quanto è stata lunga qua in Italia tutta la questione, o Aldrovandi. Ci ho ripensato tanto anch'io, davvero, Cookie è stato clamoroso, ma ci si rende conto quanto non è lontana quella realtà che insomma, Esatto. ci viene mostrata in America in questo momento. E a me una cosa che mi ha un po' incuriosito, Umberto, mentre ne parlavi, è la questione di Twitter. Che cosa è successo di preciso? Beh, allora, Trump ha fatto questo tweet in cui ha citato un razzista del 1700, dicendo "When the looting starts, the shooting starts". In pratica ha detto "Non ho paura di usare la forza militare verso i civili che stanno protestando, nel momento in cui inizieranno i saccheggi, inizieremo a sparare". Beh, in realtà stavano già sparando con i proiettili Sì, di gomma. infatti. Ne hanno già ammazzati tanti, senza contare quelli che sono rimasti ciechi, ragazzini di 17 anni, insomma. Giornalista rimasta cieca da un occhio. Anche. E, beh, comunque, insomma, citare un razzista, una frase del genere, in un contesto del genere, delicato, beh. Secondo me Trump è uscito allo scoperto proprio come apertamente autoritario, cioè poi si può dire tranquillamente fascista a questo punto. Sì, concordo. Poi se si vuole essere più specifici si può portare di, non lo so, fascismo trampiano. Sì. Però insomma il sunto è quello, lui vuole usare la forza autoritaria, ha rivelato quella faccia anche caricaturale dell'autoritarismo di cui si è sempre fatto portavoce. Del resto, una delle cose che penso che siano state importanti nelle dinamiche che hanno portato a queste proteste, non è solo il coronavirus, ma anche l'inasprimento e la radicalizzazione da entrambe le parti dovute alle politiche di Trump. Trump ha radicalizzato sia le persone di destra, ancora più a destra, dandogli corda, sia le persone di sinistra come naturale reazione a quello che sta facendo. Sì, ma poi c'è anche di mezzo comunque la militarizzazione dei cittadini, che è una cosa che negli Stati Uniti c'è da sempre, e il sistema sanitario che probabilmente ha inasprito ulteriormente tutte queste dinamiche. Per non considerare la differenza che c'è anche per quanto riguarda appunto gli afroamericani nel contagio e nelle morti da coronavirus, anche quello sicuramente ha influito. E fra l'altro, Esatto. un'altra cosa che mi aveva colpito di quello che dicevi, Non è così Umberto, democratico, non è così no, democratico questo no, virus. assolutamente. Però mi colpiva quando Umberto prima parlava dell'insurrezione dell'alt-right che difendevano i giochi, i negozi del GameStop. Fondamentalmente c'è stato Con i proprio. mitra, eh? Sì, c'è stato proprio questo. C'è una popolazione fondamentalmente armata e dove c'è anche un forte sentimento, chiaramente, cioè filo fascista, inevitabilmente quella è la direzione. Ha scatenato un putiferio. E quindi fondamentalmente c'è proprio stato una difesa armata magari di certi tipi di negozi. E questa ora ovviamente sta diventando una campagna elettorale che sta facendo in preparazione Trump, per cui non so, io mi immagino che in un mondo ipotetico in cui non c'è stata nessuna crisi da coronavirus, una potenziale campagna elettorale sarebbe stata incentrata ovviamente, non lo so, sui successi economici della gestione di Trump e di tutto il circondario. Quindi ora sicuramente si devierà tutto sul mantenimento dell'ordine, cioè quanto Trump sarà stato bravo in maniera autoritaria a gestire queste ribellioni che sono sorte, che chiaramente sono semplicemente un urlo con un bisogno d'ascolto. Sì, mi Beh, sembra chiaro che non sia stato bravo poi. è Curioso, poco no, ma che sicuro. proprio oggi Trump abbia parlato unicamente su Twitter dei successi nella creazione di occupazione di lavoro del governo Trump. Non solo, è anche riuscito a dire che oggi era una giornata grandiosa perché, avendo il coraggio addirittura appunto di parlare a nome di George, dicendo se lui ci stesse guardando dall'alto oggi capirebbe che è un grande giorno per lui e per tutti noi, per i successi che ci sono stati. Io questa cosa mi riempie di una tristezza veramente incredibile. Sì, mi ricorda un po' Renzi quando ha detto in piena fase 1 che se i morti da coronavirus potessero parlare ci direbbero di riaprire tutto. E Vabbè, quella scena frase lì ha... A decisiva. me Sì. Davvero. quella frase mi ha veramente sconvolto. Comunque, ora, Comunque sì. se non erro, comunque, cioè, Trump forse per la prima volta in questi anni è stato anche contraddetto dal suo staff, cioè se non sbaglio comunque c'è stato qualche esponente repubblicano, qualcuno a lui affiliato che gli ha dato contro, no? Quindi cioè, forse si stanno rendendo veramente conto tutti nella società americana che Trump sta un po' perdendo il controllo. Ma guarda, in realtà quasi tutti i conservatori opponevano Trump all'inizio, solo che quando poi è stato eletto non hanno avuto altra scelta che allearsi con lui e appoggiarlo in tutto e per tutto. Quindi in realtà ecco, Trump era visto male comunque anche già prima, all'interno pure delle sue stesse file. E si può anche capire perché, insomma. Sì, allo stesso tempo anche quanto si è espansa a livello internazionale la manifestazione di solidarietà per quello che è successo, insomma, a Floyd credo appunto sia anche un indice di quello, che comunque c'è stata un'immagine chiara di quello che è l'America nel 2020 e purtroppo sembra un viaggio nel tempo di 50 anni, ecco. Fatto sta che insomma Twitter per sta cosa che ha fatto Trump, no? Praticamente ha segnalato il tweet di Trump come inappropriato o incitamento alla violenza. E Trump lì ovviamente è regito, però è una storia che va già avanti da un po', cioè Trump da sempre ha detto che i media sono controllati dalla sinistra e che lui deve riprendere il controllo dei media per restituire la libertà di informazione, bla bla bla. Twitter non è mai stato molto d'accordo e in effetti ultimamente Trump aveva detto sta cosa anche prima nel caso di Floyd. Nel frattempo poi c'era stato un ministro tedesco che aveva invitato Twitter a spostare la sede in Germania dove l'avrebbero accolto a braccia aperte e dopo questa cosa, insomma, diciamo che si è inasprito ancora di più il conflitto tra Trump e Twitter, tant'è vero che anche altre aziende hanno voluto prenderci le distanze. Però insomma, in realtà, per esempio, Facebook, che in un secondo momento ha preso le distanze da Trump, in realtà non ha segnalato nemmeno il suo intervento, che era apertamente razzista e di incitamento alla violenza. Eh sì. E niente, questo diciamo. Ma Trump ha anche detto che voleva bandire gli Antifa, bandire gli antifascisti come organizzazione terroristica. Ma davvero? Sì, l'ha detto, l'ha scritto su Twitter. Non può farlo. In Beh, ci realtà mancherebbe. è una storia lunga. Lui l'ha detto, no? Però è impossibile farlo costituzionalmente perché coincide con l'idea che qualsiasi manifestazione, qualsiasi contromanifestazione a dei nazisti o dei fascisti diventerebbe automaticamente un'organizzazione terroristica. Assurdo. Quindi, insomma, Ma sono senza parole, sono sì, senza parole. davvero. Diventa difficile anche solo commentare delle affermazioni Ma del genere perché sono ridicole per dire la veramente cosa più, forse, di spessore che si può dire di una cosa del genere. inaccettabile. Esatto, però il modo in cui Trump parla, i conservatori parlano di Antifa, fa pensare alle persone che questa sia effettivamente un'organizzazione, quando in realtà un'organizzazione, un capo non c'è, non è l'ISIS. Si tratta di strutture completamente diverse. Antifa è un'ideologia che ispira persone che manifestano contro il nazismo e il fascismo. Quindi chiunque può esserlo. Comunque, Sì, insomma, sì. è tutto partito nel 2019. Nel 2019 c'era già una bill, una legge che voleva essere passata da due conservatori americani che bandiva l'Antifa come organizzazione terroristica. Ovviamente non si poteva fare. Però lui sai com'è lui. Lui, se crede una cosa, è così. Sì. E invece dell'hashtag Blackout Tuesday, cosa ci sai dire, Umbe? L'hashtag Blackout Tuesday. Allora, lì è stata una storia complessa. Anche Gianlu l'ha Sì, seguita un mi po'. c'ero interessato anch'io effettivamente a questa cosa, perché è stata un po' non lo so, una forma di protesta digitale che però in un qualche modo ha anche creato una sorta di backfire, cioè in qualche modo gli è ritornata contro, ecco. E tutto fondamentalmente è partito dall'industria musicale che praticamente ha cercato di sensibilizzare a questo tema del razzismo dilagante in America, attraverso un hashtag che qualcosa come sospendiamo la sceneggiata per questo tempo, per oggi, eccetera. E questo praticamente ha portato a cercare di non incentrarsi tanto sul contenuto vario di ogni persona per i social, eccetera, ma di fare una sorta di momento di silenzio con cui poter riflettere su questa cosa che era successa. Ora, non si capisce bene come, ma in un qualche modo da una parte è un po' automatico che questa chiamata da due appunto nere, due donne nere che avevano fatto questa chiamata di pausa sui social è stato automaticamente associato al Black Lives Matters e quindi questo Blackout Tuesday che è venuto fuori automaticamente si è legato al canale di distribuzione dell'informazione di Black Lives Matters. E in sé non c'era niente di sbagliato nel voler, non so, come dire alle persone, guardate, cerchiamo per un giorno, di non postare selfie di noi, tanto per continuare la solita, tiritera di tutti i giorni, ma semplicemente, piuttosto, pubblichiamo un quadrato nero che stia appunto a significare una sorta di pausa e di momento di riflessione e di solidarietà per quello che era successo. Chiaramente, da una parte, questa cosa che è naturale, che viene alle persone, che era una forma di manifestazione anche, non so, in qualche modo che aveva un suo senso, è stata anche presa e rimanipolata, come comunque era già successo anche in altre occasioni, per quanto riguarda ad esempio le elezioni, ok, da dei movimenti che hanno sfruttato l'occasione per fondamentalmente riuscire a censurare un canale, perché ci siamo ritrovati a questo famoso martedì di blackout in cui fondamentalmente se si cercava su Instagram o su Twitter l'hashtag di Black Lives Matters c'erano delle sfilze fondamentalmente infinite di questi quadrati neri e quindi si era andata a perdere la comunicazione fra le persone e la possibilità di condividere materiale informativo importante. Quindi, cioè, gli è proprio tornata indietro da una parte perché sicuramente c'è stato appunto, qualcuno se ne è approfittato di questa situazione perché sapeva che ci avrebbe potuto trarre un vantaggio a livello mediatico. Da quell'altra c'è stata una sorta di confusione che è anche comprensibile come alla fine questo meccanismo degli hashtag possa creare anche, non lo so, confusione per dirla in maniera, ecco, molto semplice. Stato un paradosso alla fine. Eh sì, è stato qualcosa di veramente peculiare sicuramente. Ci dice che bisogna pensare bene alle strategie, no? Tra le strategie anche di contro sommossa, no? Che vengono usate, insomma, se ne sa veramente poco, ma sono cose a cui è bene darci un occhio. Eh sì, poi specialmente non lo so, questo meccanismo dell'autocensura mi sembra che abbia dimostrato la sua pericolosità da una parte, quindi magari sono anche mezzi da poter usare sicuramente, ma in maniera molto più oculata. Ma infatti c'è stata anche una risposta a questa cosa. Lo stesso metodo è stato usato infatti contro White Lives Matter, che nonostante il nome sembri ma pensiamo anche ai bianchi, in realtà è semplicemente il veicolo che usavano tutti quelli dell'alt-right, i suprematisti bianchi americani per passarsi false informazioni o comunque informazioni di natura estremamente reazionaria. Quindi cosa è successo? È successo che una serie di troll dall'internet hanno cominciato a postare video di K-pop sull'hashtag White Lives Matter, praticamente floodandolo completamente, rendendolo inutilizzabile. Che cos'è il K-pop? Il K-pop non è altro che il pop coreano. Quindi, cioè, c'erano questi video di star pop, tutte, sai, tutte shiny, niente, coreane che cantano con l'autotune e niente. La stessa Una cosa, tra bellissima l'altro, trollata. sì, la stessa cosa è successa anche alla polizia di non mi ricordo quale città in questo momento, in America, che aveva chiesto a tutti quanti di mandargli i video dei manifestanti. Ah, se siete nella manifestazione e fate i video, mandateli così riusciamo a identificare i manifestanti ed arrestarli. E indovinate un po', il server della polizia ha cominciato a ricevere video di pop coreano finché non è andato giù perché era pieno. Ma che figata! Bellissimo. Eh sì. Ma potrebbe essere arrivato l'intermezzo per un bel pezzo di Frankie High Energy, come la vedete. Dai, facciamo un intermezzo Sì, per mandare dai, una ci sta sigaretta. sempre bene. Allora sentiamocela. Grazie. Oh, qualcosa è andato Primo storto. problema tecnico, oggi non c'era ancora stato, Ah, eh. davvero? Ma aspetto, vabbè, allora. Ok, Ok, dovrebbe essere partito ci siamo, tutto. ci siamo. LOL. Era bello se partiva il pop coreano. Infatti non me lo sono studiato, raga. Però domani è la prossima puntata pop coreano. Ragione di vita di chi ha perso la coscienza e crede ciecamente nella supremazia di una razza sulle altre. No, non è la mia questa visione della vita. E la partita non è vinta finché non è finita. Io l'ho appena incominciata. Una manciata di dadi è stata tirata e la valanga di facce numerate non si è ancora fermata. Non si sa il risultato. Ci ho provato a stabilirlo a priori chi è dentro e chi è fuori. Chi è uno, chi è zero, chi è bianco, chi è nero. Ma questa è l'opinione di una parte. Non è la più importante, è solo quella del più forte. E non abbiamo scampo di fronte alla morte. Far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio fra i popoli, forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili che accampano ragioni futili ma incontestabili che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini soltanto nella forma, non negli intenti. Se grosso ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, se scritti mille lingue, ma siamo libri di sangue. Siamo libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo uguali per tutti. Farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione Zulu. E quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se importa poi come si veste, una bestia indivisa resta una bestia chiamata a tutelare i diritti di chi. È successo a Brother Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incapprettato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue d'un uomo innocente, impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente. Ma cara gente, quotidianamente succede anche in Italia, ma non si sente. Lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente. Ogni giorno, d'ogni mese, d'ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni. Non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo liberi di sangue. Tutti liberi di sangue. Pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretti a inscenare una farsa perversa in questo universo di sole comparse, percorso dall'odio. O fingi o sei perso, no. Mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona. Seduti in poltrona, individui come questi governano il mondo e lo sfondo si riempie di morte e sconforto. Il rapporto si inclina, inevitabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista di ottusi soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Sembrava c'è il posto, se no alzi le tende su uomini nati lontano, troppo sud per tendergli la mano. Carcasse fumanti sui campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore, spine nel cuore di quelli che vedono marcire i loro fratelli. Popoli usati come merce di scambio, mi oppongo. A patti non scendo con questa realtà. E non mi va, e non mi va, e non mi va che patibolo sia il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza, capitelo, usiamo più il cuore, un po' meno le spranghe, perché siamo liberi di sangue. Solo liberi di sangue. Frankie Energy, libri di sangue. Lui da giovane craccava i videogiochi. Se giocavate tipo a Diablo, craccato, roba del genere. E anche grazie a quelli come lui. Lo racconta in un video bellissimo su YouTube. Sì, dove spiega anche come ha imparato a usare i primi sintetizzatori, bellissimo. Meraviglioso. All'avanguardia. Comunque, insomma, parlando di hackers come Frankie Energy, bisogna dire che Anonymous è tornata dopo anni. O almeno tutti dicono che Anonymous è tornata. Poi non si sa se è vero, perché non si sa mai. Però diciamo che si è fatta sentire e ha rivendicato anche varie cose. È tornata in versione decisamente anti-Trump. è tornata con un video dove denunciava la polizia di Minneapolis, il governo Trump, per le violenze, chiedeva che subito venissero arrestati i responsabili dell'assassinio, i quattro poliziotti, specialmente quello che ancora si trovava in casa sua protetto dalla polizia, che tra l'altro, a quanto pare, se ho letto bene, l'ultima notizia dice che verrà condannata probabilmente in secondo grado per omicidio involontario, no, volontario alla fine, ma che può uscire con 750 mila dollari di cauzione, che probabilmente li pagherà Trump o qualche altro stronzo. Comunque, insomma, ed esce tra l'altro Anonymous, chiaro, con le solite tecniche, no? Qualche doxing, qualche interruzione di servizio quindi ai server attraverso il LOIC o altri metodi. E con il jamming delle radio. Quindi praticamente ci sono sti video, andatevi a vedere se volete. Ci sono le radio della polizia gemmate da Anonymous, che mandano Fuck the Police. Bellissimo. Geniale, Comunque, davvero. insomma, vabbè, diciamo che è per farci due risate, no? Certo. Però hanno anche detto una cosa pesante, hanno detto che hanno un sacco di documenti nuovi su Trump ed Epstein. Epstein, quello che ricordiamo, non si è assolutamente ucciso da solo. Tra l'altro è diventato anche un meme sta cosa, Sì. però insomma, Epstein nelle ultime perizie, autopsie, beh, si dice che non è morto suicida, quindi c'è questo mistero in cui erano coinvolti vari politici e businessmen americani, che ancora insomma è lì a metà, e adesso forse viene fuori che pure Trump c'entra qualcosa, chi lo sa. Comunque, sempre per parlare di cose che ci fanno prendere bene, ci sono degli altri video veramente belli, delle chiamate alle City Town Hall di Minneapolis. Praticamente, succede così: il comune di Minneapolis, non mi ricordo quanto tempo fa, comunque prima delle proteste, decide di aprire alle chiamate, la riunione, il consiglio del comune, della città. E di far parlare i cittadini. Fatto sta che questa cosa succede proprio nel cuore delle proteste, quindi i cittadini chiamano e come? E chiamano particolarmente incazzati. Ce ne sono tanti che denunciano i crimini della polizia di Minneapolis, e la polizia di Minneapolis, il comune, il governo rispondono abbassando gli occhi. Quindi, insomma, immagini che parlano da sole. E niente. Questa è la storia so far. Vediamo come va avanti. Sì, davvero, questa settimana, come dicevamo, è stata davvero intensa, con troppe cose a cui stare dietro, sicuramente. Possiamo dire, è stato proprio un anno di merda. Il 2020 si sta veramente conquistando il suo primato in maniera Anno di prepotente. merda. Sì, secondo me possiamo dirlo, possiamo cominciare a dirlo, dai. È ufficiale. È ufficiale, davvero. Sì. No, e fra l'altro mi ha stupito molto, ci pensavo, insomma, quanto è stata veramente concentrata l'attenzione, specialmente dei media, per quanto riguarda appunto queste manifestazioni che poi a volte sono sfociate in anche dei looting, quindi saccheggi e danni a proprietà private, incendi e cose del genere. Però appunto ci siamo proprio molto incentrati sui danni alle cose e alle proprietà e utilizzando spesso questa parola violenza in tutti i modi perché questi manifestanti sono violenti, però secondo me sarebbe il caso di andare un pochino a mettere i puntini sulle i su chi sono davvero i violenti e in questo caso cos'è la violenza, cioè credo che ci dovrebbe essere una differenza fondamentale tra distruggere dei beni materiali e ferire degli esseri umani. Se ci si pensa nei disordini che poi sono avvenuti dopo il 25 maggio e dopo l'uccisione di Floyd, cioè almeno la violenza contro gli esseri umani è praticamente venuta soltanto dalla polizia. E a Eh questo sì. punto, cioè bisogna anche chiedersi, sì, la distinzione fra danni a esseri umani e danni a oggetti è fondamentale, ma non è semplice da definire. Perché Perché mi spiego meglio, si può pensare a delle persone intrappolate in un edificio in fiamme che sfondano delle porte per scappare, o non so, il marito impazzito che spacca una porta per terrorizzare la ex moglie, cioè lo stesso gesto, la stessa distruzione, la stessa violenza può essere vista ovviamente in maniera diversa. Ora, io credo, visti anche gli antecedenti a questo fenomeno che ci sono stati, non lo so, ditemi anche voi, ma questo comportamento dei manifestanti, questo voler spaccare, fare danni alle cose, alle proprietà, mi sembra anche proprio una forma di voler sfondare una porta per uscire da una situazione da cui sono stati rinchiusi troppo tempo. Quindi, cioè, diventa difficile appunto stare a mettere non lo so, il giudizio di dire però stanno spaccando, sì, ma lo stanno facendo prima di tutto come risposta a qualcosa che è successo. Cioè, di base non è che gli americani Come vanno a giro a risposta spaccare all'avanzo della tutto e a bruciare. polizia. Esatto. Tra l'altro ci sono anche vari video di afroamericani che fermano bianchi che stanno spaccando le vetrine. Assolutamente. I E ci sono protestanti. video di afroamericani che difendono bianchi che stanno spaccando le vetrine da altri afroamericani che li vogliono linciare. Sì. Quindi, cioè, vabbè, No, ma io sul come. comportamento dei manifestanti in America, tutto quello che ho visto, veramente non gli si può dire niente. E poi, cioè, No, no. com'è sta storia che comunque la gente deve es è sempre essere santa per passare bene in televisione, ma Trump può essere il più grande figlio di puttana del mondo e non gliene fanno mai pagare una. Vabbè. Bella domanda. Ma poi per dire un'altra, visto video di protestanti andare a portare le casse di bottigline d'acqua ai poliziotti, magari lì sotto il sole insieme a loro, e invece visto video di poliziotti che distruggono le riserve, le bottigliette dell'acqua dei manifestanti, cioè delle cose veramente atroci, atroci. Perché capito, se uno ruba, se uno sfonda una vetrina assicurata di un negozio, no? Quella è violenza, quella è riot, looting. Tanto da Però poter un minacciare di usare poliziotto che l'esercito. spara, hanno tagliato le ruote alle auto dei medici che andavano a aiutare la gente. Sparavano ai medici mentre raccattavano le persone da terra. Tagliano le bottigliette d'acqua. Non lo so io. Terroristi, mi sembra. Magari ci sono davvero, però Ma c'è non lo so. questa presa di coscienza che, insomma, praticamente la polizia sembra dare per scontata questa propria impunità perché non sono fondamentalmente quasi responsabili di quello che fanno, cioè possono permettersi di andare a giro, tanto sono una sorta di setta e come abbiamo visto nei primi giorni, come si diceva all'inizio, si sono presentati in una schiera di centinaia a difendere la casa di, io mi sento dire, un assassino fondamentalmente. Sì, fondamentalmente sì. Beh, Sì, è Floyd un che assassino. era stato ucciso e fermato perché era sospettato di aver pagato con una banconota da 20 dollari. Delle Mentre sigarette. Sì, una banconota falsa da 20 dollari, incredibile. Per una cosa del genere, un uomo di 2 metri che, non lo so, ho letto delle cose anche che mi hanno commosso, nel senso che a un certo punto la sua insegnante delle elementari, quando ha saputo di questo fatto, che lui era stato ucciso dal poliziotto, è andata a recuperare un suo compito di quando faceva le elementari, dove lui fondamentalmente diceva che voleva diventare un giudice perché le ingiustizie, e quindi insomma c'era anche questo animo. Lui ha detto: com'è possibile che cioè un ragazzo che aveva dei sogni del genere siano stati infranti dall'incubo più grande di essere ucciso da un poliziotto? Cioè, veramente incredibile. Sì. Vabbè, dai, direi che la mandiamo. Sì. Forse. Dimmi che pop coreano. Quasi. No, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. I've always been mad, I know I've been mad. look around, choose your own ground. How you live, how you fly, smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, count it down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards another grave. Uff, che taglio violento. Sì, ci ha decisamente violento, risvegliato. Veramente. Forse è così che doveva andare. Cioè, alla fine non era un pezzo a caso, non era un pezzo a caso, era un pezzo... Mm-hmm. Così, così. Questo bene, taglio... sarà ancora più difficile. Sì, questo taglio netto lo vedo un'analogia a cosa probabilmente servirebbe anche adesso. Sì, ok, sì. Diamo un taglio netto, dai. Diamo un taglio netto. Diamo di altro. Difficilissimo, fra l'altro, dopo questo argomento cambiare, perché poi comunque è un argomento di cui ci sarebbe da parlarne tantissimo. Ragazzi, o parliamo di sesso o parliamo di calcio. Che sono comunque due cose bellissime, sono due cose bellissime. Parliamo prima di sesso o parliamo prima di calcio? Cosa facciamo? E parliamo di sesso, dai, parliamo di sesso, dai. Ma sì, facciamoci tirare un po' sul morale da qualche novità interessante sul sesso. Quindi adesso cominceremo con questa brillantissima, nuova e spumeggiante rubrica sul sesso che chiameremo, cioè, che fino ad ora abbiamo chiamato e continueremo a chiamare, penso, Sex and the Virus, ovvero una rubrica che parlerà di sesso, però parlerà di sesso... Parlerà di sesso come, Anca? Come parleremo? Parleremo di sesso in questo momento in cui sta mancando a molte persone, in cui si sta un po' ricominciando ma con enorme fatica, e si parla di come il virus e la pandemia e le varie restrizioni stiano cambiando il sesso, il trovare come fare sesso, scegliere i partner, il vasto mondo non solo dei single ma anche delle relazioni a distanza, soprattutto sparse tra paesi diversi, in cui molto complicato, cioè magari persone non si vedranno 6 mesi o più o si lasceranno per sempre. Quindi ci sono molti cambiamenti in questo momento, e uno dei cambiamenti poi fondamentali è quello che fa direttamente al nostro corpo, quindi anche senza fare un salto direttamente dagli argomenti terribili che abbiamo affrontato direttamente dentro come si usa Tinder in questo momento. Sono delle piccole cose su come ci faccia male non avere contatto fisico, su quanto il nostro corpo stia soffrendo, il nostro cervello stia soffrendo. Quindi non è solo una questione di come usiamo le app e di quanto ci esponiamo al virus, ma anche di quanto stiamo cambiando noi stessi in queste mancanze. O almeno noi, intendo i molti milioni di persone nel mondo che non hanno un partner fisso in casa. Perché diciamocelo, cioè il sesso è una parte fondamentale, cioè noi tendiamo comunque a prenderla come una cosa da bar, no? Come un discorso quasi grottesco, come una cosa poi fondamentalmente di poco conto, ma così non è, così non è assolutamente. Sì, non è assolutamente, soprattutto in alcune società, ma sicuramente in Italia è un po' il caso, è un discorso da bar o è un tabù? Quindi le persone ne parlano come un discorso da bar e le istituzioni ne fanno un tabù. Questo crea ovviamente problemi enormi nel mezzo, perché ovviamente tra il tabù e il discorso da bar c'è tutto il mondo che tutti noi esploriamo con grandi dolori, piaceri e ciò che ne consegue. E in alcuni posti, tipo leggevo in Olanda, è pensato e immaginato come un diritto umano, non è neanche pensato come un extra a cui si avrebbe diritto in caso o una qualche velleità. È stato messo come un diritto fondamentale della persona. Avantissimo, come sempre. Quindi le persone in carica di questo, del Ministero della Sanità, si sono occupati anche di dare consigli alle persone single su come gestire il sesso nonostante la pandemia e su come comportarsi riducendo, trovandosi potenzialmente un partner abbastanza fisso. Quindi diciamo che la tendenza, come sempre, quando ci sono delle malattie di mezzo, è forzare un pochino le nostre predisposizioni monogamiche, diciamo. Sì, perché poi alla fine, se ripensiamo al mondo prima, cioè quindi pre-pandemia, era un mondo dove, cioè, si usciva, si colloquiava con una persona e non ci si poneva dei problemi sulla sua salute fisica, sulle malattie che porta, o su tutte questioni che invece adesso animano le chat, per esempio, di Tinder, animano le chat di incontri, e non solo, animano anche probabilmente un incontro dal vivo che avviene adesso in fase 2, probabilmente trova di mezzo anche degli argomenti un po' scomodi come ma tu con chi vivi, ma cose del genere, cioè, quindi c'è anche un po' più di meccanica nell'incontro, no? Cioè, si è andata perdendo anche un po' di magia. Sì, diciamo che è impossibile quasi non toccare il discorso pandemia, cioè è abbastanza complicato in questo momento con le persone con cui si parla o che si devono vedere o che si stanno conoscendo non affrontare il discorso per niente. Poi ovviamente ci sarà, lo fa, e chi ci sta cercando di tornare a una normalità, cioè senza mettere troppo l'accento sulle cose che sono cambiate. Ovviamente, non lo so, cioè, ho saputo di persone nella mia cerchia di conoscenze che ha incontrato persone che hanno avuto il virus, quindi c'è ovviamente il parlare di cosa è stato, dell'esperienza, c'è anche un tipo di connessione diverso perché si condivide una cosa all'ordine del giorno, la persona ovviamente ti fa miliardi di domande perché vuole sapere, quindi ovviamente è impossibile in qualche modo interagire del tutto senza toccare questo argomento, che poi riportato anche le paure su malattie che già c'erano, ovviamente tutte le malattie, infatti. Trasmissione sessuale, solo che ormai ci si convive da così tanto tempo e soprattutto con le malattie sessuali raramente infettiamo i nostri genitori o i nostri cari. Sì, effettivamente anche quello è un punto abbastanza importante. Per cui ovviamente non ci avevo ancora pensato a questa cosa. Sì, diciamo che ha messo il discorso su un tipo di responsabilità diverso, perché se finora una malattia sessualmente trasmessa avrebbe avuto delle conseguenze sul sistema sanitario, mettiamola così, nei casi più gravi, ma di sicuro non va ad influire sul benessere della tua famiglia, tranne a livello psicologico nel caso la malattia sia molto grave come l'HIV un po' fa. Sì. Però insomma nel 90% dei casi, 99,999, non ne vanno a la salute almeno dei nostri cari non viene messa in discussione, e adesso sta diventando stranamente il sesso in sé anche un fenomeno più sociale in modi sicuramente impensabili fino a prima della pandemia. Comunque, ad esempio nel senso che se vivi in casa con i tuoi genitori e se fai quanto fai sesso con chi lo fai diventa una questione familiare in qualche modo. E lì si pone il problema se comunicarlo ai tuoi genitori che stai uscendo con tot persone, capire che rischi si prendono, nasconderglielo e poi magari ammalarsi e non sapere da dove. Ci sono varie situazioni abbastanza inedite che si sono poste. Poi ovviamente nelle case in cui il sesso è tabù, la gente dovrà farlo di nascosto e questo rischia poi di diventare ancora più problematico. Al momento i rischi ovviamente legati al Covid stanno per fortuna leggermente calando, però si tratta chiaramente di atteggiamenti o di cambiamenti a termine un po' più lungo, soprattutto in preparazione del lungo autunno-inverno in cui non si sa cosa ci succederà. Quindi ovviamente le app di incontri su cui molta parte dei partner sessuali vengono trovati in questo momento storico stanno cercando di adattarsi a questa nuova realtà, inserire nuove parti di app, inserire le video chat, inserire insomma nuove cose per renderlo più attraente. Tinder ha anche partecipato alla solidarietà digitale, mi metto io anch'io nel mezzo perché lo uso, ci è stato offerto un mese di Tinder Passport gratuito per cui tu potevi andare a trovare persone in ogni parte del mondo. Vero? E sì, farsi compagnia e parlare con persone che magari erano in lockdown a Tokyo, a New York, a Sao Paolo e in qualunque altro posto. E quindi diciamo che anche le app per incontri si sono mosse abbastanza velocemente, sono state le prime a registrare incrementi incredibili addirittura nelle prime settimane, cioè non c'è stato bisogno di aspettare adesso gli studi che stanno uscendo più seri, già pubblicati i primi a fine maggio da L'Economist e da altri giornali. Già il 27 maggio uscirono i primi articoli negli Stati Uniti sull'MIT Review, quindi anche una cosa seria, su come l'incremento di guadagno delle app sia incredibilmente cresciuto, nel senso che il non poter vedere le persone dal vivo comunque portato anche sapere di non poterle incontrare, e comunque tantissima gente che non aveva mai usato Tinder prima se l'ha installato durante il lockdown. Nonostante sapesse che fosse impossibile, che sarebbe stato impossibile incontrare di persona il partner. Quindi c'è stata anche un'evoluzione, diciamo, del sesso virtuale. Sì, il sesso virtuale pare abbia avuto un boom anch'esso inaspettato, ma in qualche modo forse anche aspettato, perché non si sapeva bene. Alcune aziende che producono per esempio giocattoli sessuali, sex toys di vario genere, in gran parte si sono apparentemente anch'esse viste aumentare i proventi, perché persone hanno iniziato a sperimentare con cose che magari non avevano mai pensato. È vero, poi c'era Amazon Prime, quindi in un giorno ti arrivava tutto. Esatto, e poi magari immagino che se fosse stato anche messo tra i beni di prima necessità, potevano essere, arrivavano in una giornata, e quindi apparentemente c'è stato anche un'esplorazione della sessualità attraverso la masturbazione, aiutata addirittura, ho saputo che ci sono stati, non ho partecipato direttamente, ma dei sex party su Zoom. Cioè tipo delle gangbang, delle orge virtuali? Esatto. Apparentemente su Zoom, su Hangout e su altre piattaforme di video in cui tendenzialmente usate per lavoro o didattica o altro, ovviamente ci è voluto poco prima che prendesse anche la via del sesso, perché è venuto in mente quasi subito, quindi già a fine marzo se ne parlava un pochino dell'aumento esponenziale del video, che è stata fino a poco tempo fa invece più un tabù. Si faceva in chat, in video chat proprio, vedendosi con persone con cui si aveva una certa intimità, con i fidanzati lontani, con i partner leggermente più stabili. Invece apparentemente la mancanza così totale di contatto fisico, di potenzialità di incontro, ha fatto aumentare, cadere moltissimi tabù anche di mostrarsi in video, apparentemente. Quindi secondo te questa riscoperta un po' del sé, questa riscoperta anche del proprio corpo tramite oggetti o tramite anche il sesso virtuale, immagino che in parte sia una riscoperta del sé, perché effettivamente hai a che fare poi fisicamente soltanto con te stesso o te stessa. Quindi secondo te è una cosa che può essere positiva o no? Allora, è un discorso complicato su cui ancora si sta cercando di capire bene cosa ci succederà. Però non molto tempo fa è uscito anche un articolo di Žižek a questo punto, esattamente su questo, sull'importanza poi anche della fantasia nel sesso, e sicuramente anche sul fatto che in fondo molto del sesso è una specie di masturbazione insieme a un'altra persona, quindi noi stessi siamo molto spesso al centro in ogni caso. Però ovviamente è una riscoperta della propria sessualità, forse sì. Però d'altra parte il pericolo, che poi forse è sopravvalutato, che poi si tende a fare di più sesso virtuale o si tenderà a sostituire sempre di più incontro reale con un video party o con o con semplicemente del sexting o mandandosi piccoli pezzi di video o qualsiasi cosa, rischia poi di far perdere il contatto con altri esseri umani che in fondo. Poi Zizek l'ha messa ovviamente nei suoi modi esagerati, che ovviamente il corpo è la strada verso l'amore spirituale, ma in fondo è un po' così, perché il contatto con il corpo delle altre persone, più o meno amate, è insostituibile. Sì. Ed è nata un po' la paura, forse ancora direi ingiustificata, perché penso che si senta in maniera non indifferente la frustrazione e la mancanza del non avere corpi che vengono toccati, o addirittura in un momento storico in cui è pericoloso, sconsigliato, fortemente da evitare toccare altre persone. Quindi ci siamo ritrovati noi esseri nati, apparentemente il primo senso che si sviluppa in noi è il tatto, quindi esseri predisposti a toccare. E soprattutto apparentemente ci piace toccare altra pelle, ci piace toccare Certo. pelle con la nostra stessa temperatura e vogliamo avere contatto e ci è impedito in modi inediti, diciamo. Sì, ma infatti questa fase è stata vissuta estremamente in modo diverso da chi, per esempio, come me, ha convissuto. Quindi, e chi invece dall'altro canto ha vissuto da solo questo periodo. Sì. Io poi, fra l'altro, sono 5 minuti che non riesco a schiodarmi da un pensiero, ma esisterà anche il bucake virtuale? Non lo so, mi sono immaginato una schiera di orientali che si masturbano su uno schermo dove c'è un... Vabbè, lasciamo Secondo perdere. me, se l'hai pensato, esiste. Un'immagine abbastanza definita e particolare della situazione. Non lo so, dovevo dirla anche perché se no non riuscivo a sbloccarmi. No, hai fatto bene un po' perché probabilmente tutto quello che riusciamo a pensare È già stato fatto. in internet è già stato fatto, già esiste una vecchia regola di cui non ricordo il nome. Quindi probabilmente si saranno inventati dei coprischermo del computer particolari per Giustamente. non rovinare i cristalli, soprattutto attraverso la ripetuta pratica. Quindi Madonna. immagino che stia succedendo un po' di tutto, sì, cioè da questo punto di vista si stia facendo, ritrasferendo nel virtuale le cose che ci piacevano o a tanta gente piace, anche piaceva anche prima. Quindi secondo te, per esempio, no? Cioè, a livello di, le chiamo perversioni, ma prendila con le dovute precauzioni, comunque c'è, cioè, tutto quello che nell'immaginario rimane relegato comunque alla perversione, quindi quello che esce fuori dai canoni standard del sesso. Ha avuto uno sfogo in questo periodo o no? Perché cioè, alla fine tante cose secondo me si bloccano nel momento in cui uno è presente fisicamente, no? Mentre sul virtuale uno si fa meno problemi. Da questo punto di vista, finché riguarda puramente il sesso, è molto probabile, e sembra che sia un po' così, che ovviamente in chat la gente sia molto più libera rispetto al reale. Molte persone superano varie inibizioni, superano. Una volta superata la paura del video, ma che poi non è neanche così obbligatorio il video, perché spesso altre persone si eccitano semplicemente scrivendo messaggio attraverso sexting o piccoli video già prefilmati, quindi non c'è la paura di mostrarsi in diretta. Anche soltanto una volta superata quella, è probabilissimo, e sicuramente sarà successo in miliardi, in milioni di casi, forse in questi mesi, persone che magari alcune cose non avrebbero paura di farle o di dirle o di richiederle dal vivo, soprattutto al primo incontro, sono ampiamente state superate dalla mancanza poi di contatto e dall'uso solo virtuale, e quello sicuramente può aver ricevuto un impulso che, se vogliamo essere speranzosi sul lungo termine, potrebbe portare a essere più liberi anche quando si Esatto, è quello a cui volevo arrivare. Cioè, bisogna sperare in una maggior libertà, no, da questo punto di vista, anche in una caduta dei tabù. E quello si parla molto, cioè sono già usciti sempre più articoli sull'uso e sul format di Grindr, di Tinder e di altri siti per incontri, come forse l'idea del sesso come qualcosa di in qualche modo sempre un po' vergognoso, soprattutto per quanto riguarda le donne eterosessuali, per cui sembra quasi a dover mantenere l'immagine della persona che non ha avuto troppi partner, che se hai avuto troppi partner non sei adatta a una relazione, cioè cercare di separare finalmente l'angelo del focolare dalla persona che ama fare sesso e lo fa volentieri, e perché ovviamente questo non esclude possibilità di innamorarsi, avere relazioni stabili o qualsivoglia. Si parla, sì, appunto, come dicevi tu, anche di un potenziale superamento di molti tabù di vario genere sessuali, quando sarà più possibile. Ovviamente nel peggiore degli scenari succede il contrario, che avremo ancora più paura del contatto con gli esseri umani. Vabbè, ma noi dobbiamo rimanere ottimisti Sì, su questo. e soprattutto direi di continuare come facevamo prima della pandemia a seguire le buone regole di Missy Elliott. Che ne pensi? Sì, diciamo che lei ci indica molte cose da questo punto di vista. Sempre un esempio. Un esempio positivo. Ci vuole tutto. Like a vulture, see my hips, big hips, so chai. See my butt, then my lips don't chai. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ba ta ta, ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a chick that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins to gallop, send me a witch. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt boom, boom, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom, boom. You think you can handle this? Ka donk, donk. Take my thumb off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, thang, ya, toyo, thang, ya, thang. Blanc, thang, thang, ya, toyo, thang, ya, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. You know, Miss is still super duper, but Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you, slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm massa. No. Got a Lamborghini, so I drive faster. What? Just to make your haters even freaking madder. What? Admit I'm the shit name, one new batter. When I drop this record here, it won't even matter. Why you act dumb like, duh? Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go, bruh, pum pum. Give you some of this cinnamon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. If you got a big, let me search it to find out how. hard, I gotta work, yeah. It's your permit if it's wet yet. It's your permit if it's wet yet. Come on. Bene, bene, bene, bene. Allora, dopo questo salto nel mondo, nel variegato mondo del sesso, manca, ci appropinquiamo a saltare nuovamente in un altro mondo, che è quello del calcio popolare, del calcio che ora è già un po' che manca nelle nostre vite e francamente, lo dico personalmente, non è che mi sia mancato particolarmente, mi sono mancati più altri sport, però alla fine questo è un calcio che non è quello che possiamo vedere in televisione, non è un calcio da Serie A, non è un calcio dove girano i milioni, i miliardi, dove c'è il calcio mercato, dove c'è il fantacalcio, cioè è un calcio diverso, no? Cioè è un calcio... Che calcio è? Di cosa stiamo parlando? Andrea? Sì, diciamo che più o meno hai colto in pieno un po' quello che è poi il calcio popolare in super sintesi. Esatto. Cioè, quindi non è solo uno sport, c'è qualcos'altro dietro, no? No, sicuramente, guarda, anche a me non ho sentito assolutamente la mancanza del calcio, della Serie A, diciamo. Ho sentito proprio la mancanza del giocare a pallone io con i miei amici, con i miei compagni. Beh, ci credo. Quindi, no, diciamo, cercando di essere brevi, quello in cui si differenzia un po' il calcio popolare, per come lo intendo io, per come lo intendiamo noi, rispetto al calcio che tutti conoscono, ovvero, insomma, è un calcio che si basa su dei punti cardine, 5-6, quelli che vuole uno, e che sono appunto, diciamo, l'antisessismo, l'antirazzismo, l'antifascismo e vabbè, in questo caso mi verrebbe da dire anche il terrorismo, però vabbè, no. apro una piccola parentesi. Esatto, no, cioè veramente, aprendo una piccola parentesi, cioè Trump ci sta veramente insegnando il significato dell'espressione non c'è limite al peggio. Comunque, esatto. Niente, chiusa subito la parentesi, appunto i principi sono questi, si basa su l'autofinanziamento o diciamo quello che potrebbe essere un finanziamento mirato, riferito insomma a aziende, piccole aziende di zona, di insomma persone che si conoscono, che lavorano insieme. Però partiamo dall'inizio, per chi proprio non conosce la tua storia e la storia della tua squadra, cioè che... Come è nato il tuo? Cioè, di che cosa stiamo parlando esattamente? Ok, allora, altra introduzione. Io faccio parte di questa squadra di calcio popolare che è appunto la Locomotive Via di Pretreto, che è una squadra qua della Val di Nievole, che è stata fondata nel 2011 e appunto milita in un campionato di calcio amatoriale, una seconda serie. E niente, non siamo tante le realtà, quantomeno in Val di Nievole, forse siamo l'unica, ma non siamo l'unica in Toscana e appunto dopo io faccio parte di questa squadra da circa 5 anni e quindi c'è stato modo in questi anni appunto di entrare a contatto con altre realtà di calcio simile alla nostra, ovvero di calcio popolare e niente, entrando in contatto con squadre che poi non fanno necessariamente parte di campionati amatoriali, c'è chi fa parte anche della FIGC, chi gioca in terza, chi gioca in prima, quindi non c'è... E cos'è quindi che differenzia una squadra di calcio nell'accezione normale del termine dalla tua? Allora, diciamo che questa è una cosa su cui stiamo giusto appunto lavorando ultimamente nell'ipotetica idea di stilare uno statuto, un manifesto che lo rappresenti, però te lo dico come lo intendo io, appunto deve portare avanti questi tre principi fondamentali che ti ho detto prima, appunto. Ok, sono fondamentali, esatto. Esatto, escluso il terrorismo ovviamente, e poi soprattutto è un discorso di autofinanziamento. Quindi di non avere sponsor come può essere, che ne so, la Nike, ok? E l'autofinanziamento o un finanziamento mirato, e comunque l'autofinanziamento significa tramite attività, eventi sul territorio, come possono essere cene popolari, piuttosto Ah, che ne so, bellissimo. una presentazione di un video, di un film. Sono eventi che facciamo con una cadenza mensile di solito, a volte anche più spesso. Sì. E E dov'è che dove li fate? Dove vi appoggiate? allora, solitamente nei circoli di zona. Quindi circoli arci, oppure andiamo proprio come appunto ti ho fatto l'esempio prima della festa nell'Aia, che è una festa estiva, o che ne so, il pranzo del 1º maggio, che è diciamo il nostro compleanno, dove diciamo insomma riusciamo anche a mettere a tavola più di 200 persone, insomma non è una cosa così semplice. E quindi Cavolo, non ci sono niente, mai venuto. peccato, dai. Peccato, peccato, Quest'anno è peccato. saltato, quindi siamo tutti un po' dispiaciuti, e salterà anche la festa nell'Aia molto probabilmente, per cui... Ah, è per forza, è vero. Maron. E quindi niente, sì, ho detto l'autofinanziamento è comunque un impegno, una presenza sul territorio tramite varie attività. Ora, io non è per farsi pubblicità assolutamente, però che ne so, in quest'ultimo periodo abbiamo fatto delle iniziative. Sia noi calciatori che insomma la gente che ruota intorno, che ne so, abbiamo fatto una raccolta fondi per raccogliere materiale DP per i lavoratori delle pulizie, diciamo, di quel settore lì, che all'inizio della fase del Covid nessuno praticamente se ne sbatteva, e quindi Sì, abbiamo fatto una raccolta certo. fondi. Oppure io ieri l'altro sono andato, e insieme ad altri ragazzi abbiamo aiutato insomma rifugiati di zona, che insomma, portando appunto casse di cibo, appoggiandosi alla Caritas in questo caso, perché comunque come i cattolici nella beneficenza c'è da dire che non ce n'è, purtroppo è andato di fatto. E quindi niente, appunto, si differenzia principalmente in queste cose qua. Vabbè, che non sono cose da poco, diciamocelo, insomma. No, no, appunto, ovviamente non siamo quella squadra che dice, che ne so, vincere non è importante, vincere è tutto. Ecco, questo è tipo l'opposto del nostro credo. Poi ovviamente non è che ci si diverte a perdere, però... Esatto, cioè è un po' il mantra dello sport popolare. Ora, ad esempio, esatto. anche qua a Bologna, e sono in contatto con varie realtà, per esempio, ora non so se voi girate o siete in contatto con delle realtà bolognesi, ma anche qua lo sport popolare va molto e si basa più o meno sugli stessi principi, e sempre sulla raccolta fondi che avviene appunto Esatto, cioè comunque in modi simili. mi verrebbe da dire che è insomma una piccola base, ma sicuramente molto più solida che di tante altre grandi basi di società. No, ovviamente Sì, poi ad esempio infatti. molte squadre di calcio popolare accolgono i ragazzi rifugiati africani, non solo squadre di calcio popolare, esistono anche squadre di calcio formate completamente soltanto come quella di Vicofaro, per fare un esempio. Che sono formate semplicemente soltanto da immigrati, però insomma, questo Certo. sicuramente è un fattore importante sul quale noi cerchiamo di dare un aiuto massimo possibile, ecco, al riguardo. E su quello che dicevi te, ovvero come mi hai chiesto di Bologna, eccetera, appunto, quello che stavo cercando di iniziare a dire prima è che in questi anni siamo entrati ovviamente a contatto con altre realtà di calcio popolare della zona. Non a caso, ad esempio, una delle squadre di calcio popolare più grosse d'Italia, che mi pare che giochi in prima categoria, è Le Boschi, che è una squadra di Firenze, che è una delle prime fondate. E, però, diciamo, noi non direttamente con loro perché sono un po' più in alto, però con altre 4-5 realtà di zona siamo entrati in contatto, e parlando con loro, facendo iniziative, tornei estivi, insomma, quello che può essere, è nata la volontà di creare una rete. Una rete per cosa? Per aiutarsi un po' tra di noi, no? Tutte le sfaccettature. E questa idea è nata, diciamo, verso la fine dell'anno scorso, e abbiamo avuto due incontri dove appunto eravamo sei realtà, una di cioè Pisa, Massa, vabbè, Chiesinozzanese che siamo noi, Lucca, Bientina, Forse mi sfugge qualcosa. Ah, e ultimamente si è aggiunta anche la Rinascente di Genova. Sì, fra l'altro Che c'è anche una squadra Lucca, no? Infatti. la Trebesto di Lucca, che è una squadra neonata perché è nata nell'anno, mi pare, non so se 2018 o 2019, e che fa la terza categoria, che però insomma son veramente forti, sono ganzi, sono tanti, e insomma diciamo anche che in un territorio come quello di Lucca non è neanche facile. Eh no, ma infatti anch'io conobbi un ragazzo che ne faceva parte l'anno scorso e mi stupì tantissimo perché, cioè, Lucca, noi poi soprattutto veniamo da quelle zone, sappiamo benissimo non essere proprio Esatto. propensa a questo genere di cose, no? Quindi mi aveva stupito positivamente. No, infatti non è stato facile per loro, hanno ricevuto più e più volte diversi, insomma, attacchi da anche gruppi politici, e non abbiamo mai mancato anche nella solidarietà in questi gesti. E appunto la rete, quella che appunto cercavamo di creare, era anche direzionata in questa direzione qui, appunto, quindi aiutarsi in ogni situazione e caso. E niente, fatto sta che poi cosa è successo? È arrivato il coronavirus. Quindi dopo questi due bellissimi incontri dove abbiamo detto vai, si fa qui, si fa là, si fa su, si fa giù, facciamo il manifesto, non abbiamo avuto modo di beccarci. Però cos'è venuto fuori? Neanche online. Esatto, è venuto fuori questo. Sono nate le riunioni Zoom, sia quelle interne alla nostra squadra, la Locomotive, sia quelle con le altre realtà di calcio popolare. È nata l'intenzione di fare un appello che salvaguardasse il calcio di base, ovvero la ripartenza per l'anno prossimo. E l'appello è molto semplice: chiede una riduzione dei costi di iscrizione al campionato per l'anno prossimo, o una riduzione, o eventualmente, insomma, anche un azzeramento non ci dispiacerebbe. Ora, cos'è successo? Noi abbiamo fatto questo appello e abbiamo riscontrato più consensi di quello che fondamentalmente ci aspettavamo. No, oggi siamo arrivati a essere più di 100 squadre che hanno firmato questo appello a tutti i livelli. E Bellissimo, facendo bellissimo. questo siamo entrati in contatto con realtà di tutta Italia, un po' per le conoscenze, un po' per i contatti, un po' perché in questi ultimi 2 mesi erano tutti sui social e quindi c'era anche molta più visibilità, no? E niente, Quindi in un io. certo senso vi ha anche facilitato questa situazione. Sì, esatto, siamo riusciti alla fine della fiera, grazie a questo appello, che ci terrei a precisare, molte squadre che hanno partecipato all'appello non sono squadre di calcio popolare necessariamente, ma semplicemente squadre di calcio, diciamo, normale, che però insomma, a cui piace l'idea di spendere meno il prossimo anno. Ok, ma condividono anche gli ideali? Non è detto questo, no, Non l'appello è era detto. aperto a tutti, però è stata la chiave di volta per riuscirci a far entrare in contatto con un sacco di realtà, quelle che conoscevamo, quelle che non. Insomma, fatto sta che abbiamo deciso di fare questa riunione su Zoom a livello nazionale del calcio popolare, e io mi sono ritrovato una chiamata a Zoom dove c'erano 45-46 partecipanti, e c'erano 4 pagine di Zoom, e ovviamente eravamo tutti vestiti, nessuno, anche perché insomma. Non so come. Insomma, non era una gangbang su Niente di Zoom. strano, perché il 90% erano maschi, quindi meglio così. E niente. Sarebbe stato peculiare, Ed è insomma. stato molto molto bello. Cioè, le realtà venivano da Milano, Bergamo, Palermo, Napoli, veramente da tutta Italia, e tutti hanno parlato, tutti hanno detto le proprie situazioni, ci siamo imparati a conoscere. È nato un gruppo WhatsApp, e ieri sera c'è stata la seconda di queste riunioni, dove appunto si cerca di dare forza a questo appello, ma anche andare a toccare altri punti, però non, diciamo, non voglio entrare troppo nello specifico Nel merito, nel esatto, merito. delle dinamiche calcistiche, perché diventa un po' complesso. Fatto sta che, insomma, la morale un po' è che non tutto il calcio è merda, ecco, per cercare di essere No, ma certo, ma quando lo sport è popolare comunque non è fatto perseguendo i fini classici dei soldi, della notorietà, insomma, di tutto quello che c'è dietro allo star system, alla fine, cioè, quando è fatto per quello che è, ovvero per unire, tutto lo Esatto, sport è bello, tutto lo sport è è bello. fatto per la socialità, è proprio importante È quello. dove si va magari a rivalutare le relazioni umane, i rapporti umani, il coltivare certi tipi di, non so, cose che si devono imparare a vivere e a sapere applicare la solidarietà a certi tipi di comportamenti che magari si si tende a, non so, a prendere più facilmente quando si vive in un determinato gruppo che rispecchia certi ideali, piuttosto, appunto, come dicevi te, Nicola, di, non so, meccanismi di tipo aziendale, per cui dopo la squadra è una società che deve portare ricchezza e quindi entra all'interno del meccanismo di mercato, ecco. Esatto. No, e ad esempio, un'altra riflessione molto importante a riguardo di questa cosa qui che ho vissuto anch'io in primis è proprio il fatto che siamo considerati un po', diciamo, noi millennials, o che siamo noi, ovvero le generazioni, quelle ancora più recenti, tra le generazioni più distanti dalla politica, no? E io credo che una situazione di sport popolare, che poi noi ora stiamo parlando di calcio popolare, però lo sport popolare è a tutti i livelli, già anche in queste riunioni è venuta fuori l'esigenza di trasportarlo a tutti gli altri sport. Diciamo bene che lo sport popolare per eccellenza è il rugby, sarebbe, però non ha la stessa, diciamo, valenza del calcio in Italia. E Io niente. pensavo alla box. Rugby prima, box poi, a livello proprio storico, però ovviamente in Italia il calcio è quello che. E altra cosa importante, è stimato che l'80% del calcio a livello nazionale, non sto parlando di soldi, ma sto parlando proprio di mole, sia dilettantistico in Italia. L'80%, per cui non è che si conti proprio niente. E appunto quello che stavo cercando di dire prima, brevemente, è che l'avvicinamento a una realtà come quella come la nostra, è anche un modo di avvicinare alla politica i giovani, ok? Che magari non esistono più quelle situazioni di partito, eccetera, dove si va proprio a fare politica, ma è quello che poi noi effettivamente facciamo, cioè è soltanto un mezzo, ok? Per arrivare a quello stesso obiettivo. Quindi Sì, secondo me è molto importante. effettivamente è molto importante, molto molto importante. Poi Esatto. soprattutto dalle nostre zone, nelle nostre zone che non pullulano certo di circoli dove si parla di politica o c'è un attivismo particolare, una manifestazione, insomma, è una zona che è un po' morta da un punto di vista di attivismo, no? Quindi è bene che ci Esatto. siano delle realtà che smuovono un po' gli animi, no? Che sensibilizzano, che fanno capire l'importanza della partecipazione, perché poi Esatto. fondamentalmente è quello il punto, no? La partecipazione. Sì, ed è un modo di avvicinare. Cioè, mi ci sono avvicinato io e ho vissuto anche in primis, ho visto ragazzi più giovani di me che appunto no, magari non avrebbero mai pensato di ritrovarsi a fare del volontariato, a fare iniziative che parlano della situazione di qui o di là che sia, e questo è un modo, secondo me, anche più semplice, più diretto. Dove appunto se te chiedi a un giovane, a un ventenne di oggi, di andare a fare politica, probabilmente ti snobba. Se gli dici intanto di venire a giocare a pallone e poi magari gli insegni anche determinati principi, sia sul campo da gioco che fuori, perché è una lotta che si fa su tutti i fronti. Secondo me è importante e può essere una buona chiave di lettura per parlare di calcio popolare, appunto, di sport popolare in generale. Sì, guarda, mi hai fatto tornare la passione per il calcio. Guarda, ci sono tante polisportive dove si parla ad esempio anche di basket popolare, insomma, alla fine basta che, cioè l'idea è quella di seguire determinati principi, poi uno può cominciare a farlo oggi o può farlo da 20 anni, e la morale non cambia. Certo. Bene, grazie Andrea. Bene, Non so ragazzi. se vuoi dire qualcos'altro, se vuoi aggiungere qualcosa, sentiti libero. Ma non so, magari non ho specificato molto quali sono gli obiettivi di questa rete che si sta creando, però non li sappiamo bene neanche noi in realtà, perché ovviamente per non voler parlare di tutte quelle dinamiche tecniche, ovvero il costo dei campi, le visite mediche, qui, là, che è tanta roba, però diciamo che se una cosa la posso dire è proprio che l'idea che ci starebbe alla base, cioè l'obiettivo finale, il più alto possibile, sarebbe quello di creare un modello alternativo al calcio, diciamo, quello che conosciamo noi, cioè dove Quindi appunto con un proprio campionato, con delle proprie categorie, una tutte propria queste lega, una cose. propria scuola calcio, dove appunto sia il genitore col bambino piccolo, sia il ragazzo che ha smesso di giocare a pallone, sia quello per chiunque capito, sia un'alternativa, cioè sia appunto per il genitore che non vuole che il proprio figlio diventi un piccolo Cristiano Ronaldo, perché poi oggi questo è quello che ti insegnano nelle scuole calcio. Esatto, quindi se non possiamo convertire il sistema dobbiamo creare un percorso parallelo. Esatto. Uno ci prova a fare guerra, a fare Ci lotta nelle... proviamo. Uno prova a fare lotta nelle federazioni, però se vedi che poi non funziona e ti ritrovi a essere 100, 200 squadre a livello nazionale, dici, vabbè, sai che c'è, noi ci facciamo la Vuol nostra dire che c'è lega. qualcosa, vuol dire che ne ha lasciati fuori tanti il sistema. Poi direi che non c'è altro da dire al riguardo. Ci sarebbe tanto da dire, ma il tempo è quello che è. Lo so, ma è quello che è. Quindi, lo so, vogliamo chiudere la puntata con un tuo pezzo, Andrea? Certo, sì, no, vabbè, è il minimo che si può fare. Ce l'hai già in mente allora, ce l'hai già in Ce mente. l'ho già in mente, aspetta che capisco Come come metterlo? metterlo. Comunque, mi hai aperto un mondo nuovo sul calcio. Esatto, puoi venire a fare il portiere, Umba, o il dirigente. Portiere di riserva però, di riserva. Io gli farei fare il motivatore a Umba. Anche, sì. Il motivatore, sì. Guardaline, ce n'è tanti, eh. Sì, guardaline mi sa che è il ruolo perfetto per me. Che poi il terzo portiere è un po' motivatore, perché tanto non gioca mai. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti e a Bella, alla tutte, alla prossima. prossima puntata! Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao! Esterina. Come è intelligente quando porta le... Bella. Bella lì, stacco la registrazione.